la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:30 primi e 4 secondi, quindi Lettera Milano vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast. Oscar Giannino vi ricorda l'indirizzo a cui inviare altre disponibilità, perché come altre in precedenza anche oggi due testimonianze su Italia non per giovani, e oltre a questo naturalmente potete scrivere la versione di Oscar @radio24.it per ogni tipo di altra questione, altri temi per le puntate e così via. Lo sapete, provo a rispondere a tutti, molti increduli poi quando arriva la risposta dice, ah, ma allora è vero, ci provo, magari poi alcune finiscono in spam e non me ne rendo conto, però ci provo e mi sembra il minimo visto che esistiamo grazie a voi ascoltatori. Allora, oggi due testimoni, stiamo parlando di storie di chi sta fuori e con provenienze, ragioni e itinerari di formazione diversi, a dire la verità. Il primo è Claudio Matera, che ringrazio di essersi reso disponibile e di averci scritto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato. No, e si figuri, grazie a lei che ci ha scritto. E in questo momento dov'è? Sono in ufficio a Enschede, che è una città di 100.000 abitanti all'est dell'Olanda, centro-est. Praticamente in Germania. Praticamente in Germania. Allora, è una lunga storia quella di capire come ci è finito, e quindi lei è dell'81, mi ha scritto come anno per capirci. Quindi stiamo parlando di 36 anni, anzi tra poco fa anche il compleanno, anzi no, l'ha appena fatto, il 19, l'ha appena fatto, sì, qualche giorno fa. Auguri, ex post. Allora, innanzitutto, la sua famiglia, che è una chiave di molti sviluppi. Sua madre è nata a Lugano, Svizzera. Sì. Svizzera mamma, vera. Svizzera vera, perché Svizzera tedesca, anzi romancia, ladina da parte di nonna, e Svizzera ticinese di Lugano da parte di mio nonno. E però lei ha vissuto un po' dappertutto con la famiglia in Svizzera. E quindi è una famiglia poliglotta già di suo, insomma. Ma con un padre invece calabrese, Rossano in Calabria. Come mio padre dice sempre, lui calabrese del nord e mamma svizzera del sud, comunque sì. Allora, suo padre nasce nella Calabria profonda, una famiglia che negli altri rami sta abbastanza bene, però lui non se la passa benissimo, è cresciuto in povertà, scrive. Sì, forse ho peccato di scrivere un piccolo parenti lontani come Gaetano Cappelli, però... Per far dire forse che come io sono andato via, lo stesso mio padre bene o male si era fatto 1200 chilometri dalla Calabria ed era arrivato in Lombardia per... Perché suo padre è ragioniere, lavora, frequenta l'unica università, a quel punto non c'era stata liberalizzazione ancora degli accessi, che col titolo ragioniere poteva fare, cioè economia e commercio a Bari, poi siccome due suoi zii trasferiscono al nord, va a nord anche lui, come centinaia di migliaia di italiani hanno fatto in quegli anni. Esatto, e poi vabbè, lui continua gli studi lavorando, e si laurea in legge. E diventerà poi avvocato, quindi una tenacia notevole quella di suo padre. E lei cresce appunto a Indunolona, provincia di Varese. Sì, esatto, una piccola città di fuori Varese che era comoda dal punto di vista logistico, perché mamma bene o male lavorava, anche se con contratto a tempo determinato, part time in Svizzera. Tua madre è insegnante. Mia madre di formazione insegnante, che però poi quando poteva restava, fatto anche la casalinga per stare con me e con mio fratello a casa, comunque in Duno, perché papà andava a fare l'avvocato a Varese e mamma quando lavorava era sulla strada per andare a Lugano a insegnare lì. E a questo punto, quando si tratta di scegliere la scuola, lei finisce alla scuola europea di Varese. Esatto, e forse questo è un po' la chiave. Scuola europea di Varese perché è quella concepita e realizzata per i figli di coloro che lavoravano al centro di ricerca, anche noto come Euratom, di Ispra. Esatto, e qui ovviamente... E questa roba le cambia la vita. Eh beh sì, perché io mi ricorderò uno dei ricordi, quando si è piccoli, sono pochi ricordi, io mi ricorderò sempre il primo giorno di scuola, dopo che ero stato con i compagni di classe italiani, c'era la prima lingua straniera, nel mio caso il francese, c'era lezione, mi ritrovai in una classe con inglesi, olandesi, fiamminghi, tedesche, e l'unica lingua che avevamo in comune era quella che dovevamo imparare, cioè il francese. E quindi si comunicava a gesti e con le parole che bene o male un insegnante francese ci insegnava di volta in volta. Ma era una scelta voluta, tenacemente voluta dai suoi genitori o un caso? La scuola europea? Mia madre da insegnante non era molto felice, forse delle scuole di Induno, quello che è. Quindi provarono un'altra scuola a Varese, dalla quale però io scappai, l'aneddoto fa un po' ridere, ma all'asilo ci faceva vedere una suora morta, io ebbi incubi da piccolo, e mia mamma fu scandalizzata. Quindi per via di quella suora cercò un'altra scuola. È finita a una scuola in cui è diventato multilingue fin da piccolo, insomma, in parole. Esatto. Ma mamma, che pure da Svizzera vera conosce tutte le lingue, cioè il francese, il tedesco e così via, con lei da bambino parlava solo italiano? No, parlava di tutto. Ah, quindi lei aveva un avviamento iniziale, per così sì, dire. Sì, e poi mia madre aveva vissuto per un po' a Londra, mia nonna del 12 aveva vissuto a Londra e c'erano amici inglesi, insomma le lingue si sentivano. Poi l'aneddoto vuole che per esempio il mio fratello si arrabbiasse se gli parlavano in altre lingue, mentre a me la cosa evidentemente non dispiaceva. Detto questo, finisce per studiare giurisprudenza a Milano, ma a quel punto dice, visto che ho questo avviamento plurilingue eccetera, le discipline internazionalistiche. Sì, così è stato. Poi ho avuto la fortuna di avere degli ottimi insegnanti in bicocca, perché ho studiato giurisprudenza lì, e quindi quando stavo preparando la tesi in diritto costituzionale europeo e iniziavo a pensare, beh, cosa facciamo dal giorno dopo la laurea, mi ricordo che un mio docente al liceo francese di storia e filosofia ci aveva parlato del Collegio d'Europa di Bruges, e quando stavo finendo, vabbè, però potrei andare lì a specializzarmi in diritto dell'Unione Europea, e così feci, anche perché il diritto dell'Unione Europea rispetto al diritto internazionale, che forse alcuni considerano più elegante, però mi dava anche, come dire, qualche prospettiva in più di lavoro, per non saperne leggere né scrivere, con una materia che ha a che vedere con l'economia, i soldi e la gente, magari è più facile anche trovarsi un lavoro. Detto questo, lei al Collegio di Bruges si trova benissimo, dice: quello è stato un periodo rivoluzionario della mia vita. Certo, inciso, se l'Europa va in pezzi, lei la vedo un po' problematica come prospettiva. No, però non andrà in pezzi, vabbè, questa è la sua certezza. Sentire il dibattito italiano non verrebbe da pensare allo stesso modo se vincerà Le Pen, non lo so, però a sentire il dibattito italiano il sole gira attorno alla terra, quindi... Ah, ecco, questa è la sua opinione da fuori. Allora, già quando stava ancora a Bruges iniziano a cercarla, perché lei dice: c'è un colloquio con un centro di ricerca all'università di Amsterdam che gli offre un lavoro. Esatto, cioè io ero ancora in fase esami, tesi, eccetera. Ma lei, spieghi ai nostri ascoltatori, era un genio, aveva un palmarès di voti eccezionale. No, allora, ero mediocre al liceo, la laurea l'ho fatta bene, ecco, quello lenta, perché mi sono laureato tardi, ma con la lode, perché per entrare poi lì a Bruges bisogna fare il test, eccetera. Quindi forse il peggiore, no, ecco, ho avuto fortuna in quello. Però insomma, non, è una persona normale. Sì, che... Il mio diploma di Bruges dice bien, non dice très bien, quindi una persona da quel punto di vista... Eppure già l'hanno cercata subito, anzi, prima ancora che finisse. E quindi inizia a lavorare come ricercatore consulente. Quindi 2008 lì, sì, ad Amsterdam, per l'Università di Amsterdam. E un bel ambiente, perché si faceva sì ricerca, ma si facevano anche consulenze. Io ho lavorato da temi come l'implementazione della direttiva servizi nel caso Italia, o la non implementazione della direttiva servizi, direi la non implementazione, esatto. Sì, direi. Fino a insegnare diritto dell'Unione Europea, costi progrediti a giudici e funzionari amministrativi dei nuovi stati membri, o addirittura anche degli stati confinanti con l'Unione Europea che però sono associati al mercato interno. Quindi ho acquisito un'esperienza molto Ma i progetti per i quali lavoravate nei confronti della Commissione erano progetti pubblici olandesi o pubblici e privati? Allora no, un po' di tutto, essere proprio sincero. Ho imparato fin da subito, mi hanno dato tra le mani un bando di quelli dove bisogna poi scrivere il proposal, scusi non so più parlare italiano, bisogna fare compilare formulari per fare le proposte di consulenza eccetera, per la commissione, per i ministeri olandesi, però poi a volte siamo stati contattati anche da PricewaterhouseCoopers o uffici comunque privati. Quindi una grande società di consulenza internazionale, società private. Sì, perfetto. Quindi di tutto. E adesso, dopo questa esperienza, devo dire iperformativa e anche devo dire con qualche soddisfazione, oggi lei insegna e quindi ha un contratto a tempo in una piccola università olandese. Esatto, perché tutto questo sostanzialmente perché mi ero ficcato in testa che volevo il dottorato, volevo provare a fare, a lavorare in università, però avevo bisogno di uno stipendio che mi garantisse di vivere in modo dignitoso, diciamo, e l'Olanda me lo offrì e quindi sono riuscito a conseguire il dottorato in Unione Europea e poi tramite il mio, in italiano, relatore di tesi di dottorato ho trovato il posto in questa università e adesso sono qui. L'ha trovato tramite relazioni o...? Ah beh sì, nel senso, avevano bisogno, però prima ancora di mettere l'annuncio, in questo caso ho ricevuto una chiamata, perché poi in Olanda le università possono assumere come un'impresa privata. Ecco. Quasi come in Italia. Come in Italia. Quasi come in Italia. E nel mio caso funzionava bene perché mi scadeva il contratto. Però io apprezzo la sua sincerità perché dice: comunque vorrei precisare nella sua lettera che le cattedre e le promozioni sono afflitte, come in tutti gli ambienti universitari, anche in Olanda, da un certo grado di nepotismo e clientelismo. Ma sì, ma certo. No, lo dico perché non è che stiamo semplicemente lodando i meriti, non vedendo anche che i difetti sono diffusi, mica solo in Italia. Ma certo. Poi il mondo universitario è un po' come quello dell'artigianato, io faccio sempre questa parallela. Adesso mi fa arrabbiare tutti i professori universitari in ascolto. No, ma il maestro artigiano si sceglie il discepolo che è più bravo. Ah, in quel senso lì, sì. In quel senso lì, cioè, si vede, ci si riconosce nel discepolo e si crede che questa persona possa continuare il lavoro della scuola di Jens, che è piuttosto che dell'Università di Bologna, cioè, è una cosa. No, lei dice connaturata all'Accademia. Il problema è se si abusa poi. Quello può accadere dappertutto. Ecco appunto. Comunque lei è molto grato, scrive: io sono molto grato a un paese che da 9 anni mi ha garantito 14 stipendi l'anno e contributi per la pensione con rendiconti semestrali, cari ascoltatori, come sì, in Italia proprio. Come in Italia tale e quale, per così dire, e dopodiché che gli ha consentito di fare riunioni ai ministeri, di insegnare davanti a 160 studenti, cioè insomma una vita non solo dell'insegnamento frontale, ma di formazione continua con esperienze nuove. A questo punto il contratto le scade nel 2019 e lei mi dice: ma io non credo che resterò qui ancora a lungo, per andare dove? Oggettivamente, anche grazie agli amici inglesi, il campo si è un po' ristretto, quindi è ovvio che... Questi pensano tra 2 mesi di chiudere già le frontiere, vabbè, speriamo, vediamo un po'. Sì, vabbè, quella è fantascienza politica, però sì, si legge, è difficile che poi il diritto dell'Unione Europea e il diritto delle organizzazioni europee non sarà più una direi che per loro diventa e quindi dice: lei cercherà di spostarsi o in Belgio o in Svizzera. Sì, esatto. Io patrono la Svizzera, però detto questo vedrà lei. Però andiamo subito al punto finale. Lei dice: l'Italia ci tornerei di corsa. Sì, beh, ma Guardi, è forse è una cosa molto banale, gli ascoltatori penseranno che questo qua è diventato addirittura docente, però stando via ci si riconosce più e sì, ha a che vedere e si deve riflettere sulla propria identità e quindi poi io sono calabrese, quindi forse ancora più col cuore. Però lei dice sì, ma io se vengo in Italia con quello che danno ai ricercatori col piffero che campo, e quindi? Esatto, e quindi o le cose cambiano in Italia oppure rimarrà un sogno. Ecco, allora rimarrà un sogno e credo che alla fine finirà in Svizzera, ma io vediamo cosa succede, se nel 2019 campo ancora e faccio questo mestiere, noi ci teniamo in contatto, quello che mi piace di lei è questo spirito ironico, in cui tra caso e scelte, il polilinguismo come capite è una chiave per aprire innumerevoli porte, fin da quando si è piccoli, rifletteteci cari genitori in ascolto, però inanellando una serie di casi ma anche tenacia e pur ammettendo di non essere un genio, il nostro Claudio ha finito per fare cose straordinarie rispetto a chi oggi si laurea e si guarda intorno in Italia e dice aia, neanche in un call center mi prendono. Grazie Claudio Matera, auguri, e noi tra un minuto dopo il traffico torniamo. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta la versione di Oscar. E dopo, eccoci tornati qua in studio, dopo aver sentito Claudio Matera, un'altra testimonianza, Oliviero Giannini, che diciamo ci dà un spaccato di che cosa significa in Italia per la sua generazione doversi essere barcamenato di fronte al proliferare di figure create alle università italiane per troppi decenni, dai tempi di Guida della DC, pensate da quanti decenni fa, una proliferazione di figure che esistevano solo nell'ordinamento italiano, a cui si prometteva che fossero figure temporanee per poi accedere alla cattedra, e che poi invece hanno finito per tra virgolette piagare intere generazioni, nonché lo stesso impianto delle nostre università, gli assegnisti, borsisti, contrattisti, fino ai ricercatori di vario tipo, e con gli interventi di ogni governo, compreso l'ultimo del governo Renzi sui ricercatori e col ministro Giannini. Allora, Oliviero Giannini, da dove ci stai parlando? Da Roma. Oh. Intanto buonasera Oscar e buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco. Di che anno sei? Io sono del 74, quindi non più giovanissimo. 2000, sì. No, insomma, io per standard italiani abbastanza giovane. Sì, appunto. Laureato in ingegneria meccanica alla Sapienza nel 2000, ho conseguito il dottorato sempre alla Sapienza nel 2004, con una lunga esperienza di quasi 2 anni alla Carnegie Mellon University a Pittsburgh. Ecco. Che è stato, diciamo, una delle esperienze formative più profonde. Io sono stato molto bene sia durante la tesi di laurea, in realtà era un sogno che avevo fin da bambino, quello di diventare, da bambino ero uno scienziato, la mia idea, insomma, poi la cosa più vicina probabilmente è fare ricercatore in un ambito che poi mi è sempre piaciuto. Questo dottorato in meccanica applicata a Pittsburgh negli Stati Uniti ti è derivato automaticamente. Il dottorato sia italiano della Sapienza, sì. Con questo periodo di diciamo. Al termine di questo, dici, con la mia ragazza americana, che chiaramente all'epoca avevo trovato in America, ci siamo trasferiti a Roma, ho continuato diciamo, l'attività presso l'Università La Sapienza con il professor Sestieri, che è stato sicuramente una delle guide molto importanti, un po' come tutte quante nella mia vita, cioè mi sono sempre scelto persone di cui avevo una profonda fiducia anche nel modo di lavorare, sì, dei veri maestri. Diciamo, ma cos'è che ti faceva? Posso farti una domanda? Cos'è che ti spingeva a quel punto a voler insistere all'interno dell'università, nella carriera universitaria? Perché ti era chiaro quali erano i problemi rispetto invece a un lavoro in un'azienda? Ma allora è sempre una situazione un po' difficile, c'è sempre la speranza, no? Può essere bandito il concorso, il ministero può dare un po' più di budget e così via ai vari dipartimenti. istituti o gruppi di ricerca, per cui, come dire, non è stato mai detto da nessuna delle mie figure di riferimento che non c'era uno spazio all'interno dell'università. Era un discorso di attesa. Ho capito. Del gruppo si faceva anche un discorso di forte meritocrazia, per cui ci veniva, diciamo, comunque spinti a pubblicare molto. Il gruppo era molto produttivo anche da un punto di vista scientifico, che poi è stata l'eredità, perché questa è una storia che poi finisce bene. Per cui, insomma, il fatto di aver lavorato con gente che aveva la ricerca e la cura della didattica al centro della propria deontologia professionale, diciamo, perché appunto il mondo accademico è fatto di persone che si vantano di un titolo, ma anche di tanta gente che lavora tutti i giorni appresso agli studenti cercando di insegnare, non c'è dubbio, e cercando di fare ricerca. Ma però ti è andata anche abbastanza bene, perché quando da assegnista, appunto, una di quelle figure proliferate all'università italiana di cui parlavo prima, e sono finiti i soldi per il tuo tutor, eccetera, eccetera, ti ha passato a un altro in un'altra materia. Un altro tutor con un'altra materia, con grosse difficoltà, ma ancora una volta un'altra figura di riferimento importante nella mia vita. Quindi in realtà cambiare argomento di ricerca, passando tra l'altro dalla meccanica alla scienza delle costruzioni, per cui ambito civile, per capirsi, meccanica applicata, che era la materia dei sestieri. Però tu per anni e anni e anni, da assegnista, mentre diventavi un uomo maturo, e quindi dal punto di vista del reddito, diventava sempre più problematica la cosa, e la frustrazione, sì, diciamo, non ti cresceva, no? Allora, la frustrazione cresceva pesantemente, e in parte notavo anche l'impotenza di fronte alla volontà eventualmente di trovare un posto, quello di non avere poi la disponibilità di farlo, anche di rinnovare le borse. Contemporaneamente chiaramente ho cominciato a fare attività professionale come consulente informatico all'epoca, quindi terzo cambio di carriera nei 10 anni, diciamo, di attività di ricerca. Ho anche fatto questa esperienza come libero professionista, tra l'altro ho cominciato anche a ascoltare le tue trasmissioni, Oscar. No, vabbè, quello è stato un errore imperdonabile, però a quel punto le tue giornate, dici, erano dalle 8:30 alle 13:30 ricerca, all'università, dalle 14 alle 21 l'attività per fare sviluppo, analisi software, dati e così via, che insomma è una bella È una bella fatica. Avevo anche naturalmente la società per cui insomma, facevi consulenza nel 2012, è arrivata la crisi, è bella che è esplosa, riduce le attività, sì. E contemporaneamente, più o meno per grande fortuna, mi viene detto che cercavano una figura da ricercatore di tipo A, viene chiamato, cioè quelli a tempo determinato. Ne abbiamo già parlato, a tempo determinato. 3+2. Nel frattempo tu quanti anni avevi per diventare ricercatore? Io avevo 38-39 anni. Voi capite, cari ascoltatori, non è concepibile con un'università di paese avanzato che dopo tutta questa storia si diventi ricercatore del P2 a 38 anni. Vabbè, comunque. Va detto anche una cosa importante, questo in generale, nel senso che gli anni più produttivi sono quelli del dottorato e subito seguenti al dottorato. Chiaramente poi, andando a svolgere una serie di altre attività per poter mantenere una famiglia, uno si trova anche chiaramente a diminuire il proprio output scientifico, per cui se ero un ricercatore, diciamo, in linea con le medie europee e internazionali a 4 anni al dottorato, a 10, diciamo, ero sceso sopra forse ancora la media nazionale, si è dato anche i risultati dell'ultima VQR sopra la media nazionale, però non più secondo me a livello di ricercatori americani che hanno altre risorse, altri tempi a disposizione. Tra l'altro a quell'età tipicamente si aspetta che si coordinino già dei gruppi di ricerca, dottorandi e quant'altro, e tutto quanto questo tipo di attività di coordinamento viene di solito svolta, ma non figurando come titolare in quanto solo assegnista di ricerca. Allora, detto questo, grazie ancora una volta al merito che tu riconosci di un professore, il professor Bella, che è all'Università Cusano, all'Unicusano, sì, è il coordinatore, no, si forma, no? Entra in un gruppo che è al top della produttività scientifica, e questo ti porta incredibilmente, a quel punto dopo tanti anni, però incredibilmente no, per fortuna. Sì, cioè, diciamo che c'è sempre il discorso, quello che ha fatto Steve Jobs ai ragazzi dell'MIT, graduation, che a posteriori uno riesce a riconnettere un po' di vari punti della propria vita e riesce a dargli anche un filo comune, che oggi uno riesce a farlo a posteriori, perché chiaramente durante il percorso era fortemente frustrante. Però appunto pubblicazioni a nome unico, un'alta produttività nei primi anni, molte citazioni su riviste internazionali e così via hanno fatto che sì, che abbia preso abitazione prima da associato e poi da ordinario. E sei il più giovane ordinario del settore italiano. A quanti anni? Sono stato ordinario a 40, poco prima di compiere 42 anni. Giovanissimo rispetto alla media italiana. E giovanissimo, anche molto fortunato. Diciamo. Allora, io devo dire che la morale della favola che trai tu, la riassumo io perché il tempo è poco e quindi ti ringrazio Oliviero, è questo. Primo, ha scelto l'onestà e la competenza delle figure di riferimento all'interno dell'università. Questo ha pagato, perché nel suo caso, seppure come avete sentito con anni e anni di tenace attesa, questo lo ha portato attraverso esperienze che, arricchite da quelle internazionali, gli hanno dato la fortuna, sì, ma di raggiungere una roba che lo fa sperare. In Italia ci sono ancora logiche che funzionano di questo tipo, anche se, concludo, vedo intorno a me tanta frustrazione, che ovviamente è l'altra faccia, purtroppo, della medaglia. Grazie Oliviero, auguri, continuate su Radio 24, appuntamento con me Alessandro Milano domani mattina alle 8:20, attenti alle 2.